Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Giovanni D'Ambruoso e Delizia S.P.A. alla conquista del mondo a suon di burrata. Di Nicola Scevola. Nessuno, me compreso, pensavo di arrivare qua. Perché il progetto era far mangiare bene i miei clienti di allora come si mangia in campagna. Perché gli allevatori, tutti lo sappiamo, mangiano bene, mangiano naturale. E così è partito per gioco, per in piccolo questo discorso. Ogni giorno si cresceva perché avevo voglia di quella voglia, quel sogno di diventare un qualcuno. Questa voglia di affermazione, mista al fiuto per gli affari e a un pizzico di fortuna, ha portato Giovanni D'Ambruoso a conquistare il mondo una burrata alla volta. Figlio di allevatori pugliesi, classe 1959, questo imprenditore fonda nel 92 un piccolo caseificio artigianale sull'altopiano delle Murge, in provincia di Bari, oggi diventato Delizia S.P.A., un impero dall'identikit eccezionale che fattura oltre 40 milioni l'anno in 24 paesi. Allora, allevatori 114 ad oggi, fatturato 2016 40 milioni, prospettiva quest'anno 2017 arrivare a 45, crescita, 200 dipendenti ad oggi, ma con il nuovo stabilimento cresceranno anche quelli, 40 venditori in Puglia e oltre 2000 clienti sparsi tra Italia, Puglia e Monte. D'Ambruoso comincia a lavorare nelle stalle dei genitori quando è ancora un ragazzo. Lì impara a riconoscere l'importanza della qualità del latte, ma si rende anche conto che per realizzare il suo sogno non basta fare un buon prodotto. Per avere successo occorre capire le dinamiche commerciali e le regole del mercato. Appena finito il militare, mi affascinava il mondo delle vendite. Quindi comprai un piccolo furgoncino, compravo del prodotto caseario e andavo in giro a vendere questo prodotto. Dopo 12 anni ho detto, c'ho i clienti oramai affezionati dei miei prodotti che compro. C'ho un locale che nel frattempo con i piccoli guadagni mi avevo fatto di proprietà. Mio padre produce del buon latte, allora mettiamo su un piccolo caseificio, 4-5 dipendenti, iniziamo. 300 metri quadri, si raccoglieva il latte e si è fatta la trasformazione, ho messo un buon casaro e ho trasformato questo latte e l'ho portato ai miei famosi clienti, non comprando più, ma dal produttore al consumatore. È stato il boom degli anni 90 quando la mozzarella si è incominciato pure a percepire di più come secondo sulle tavole, quindi c'è stato un abbinamento. La faccio breve, siamo stati sempre in crescita. In effetti nel vecchio stabilimento abbiamo fatto 3 ampliamenti. Arrivato nel 2000 ho incominciato a capire o rimanere piccoli o incominciare a pensare in grande di fare un prodotto, un'azienda più grande. Era importante, però bisognava decidere o rimanere artigiani piccoli o fare questo salto di qualità e presentarsi al nord, presentarsi all'estero. Però avevo una fortuna, che dietro ero riuscito a fare una squadra che ci credeva in me, sia nel mondo allevatori, perché negli anni gli allevatori mi hanno seguito, perché io dal primo giorno ho avuto sempre la filosofia e il concetto di prendere e trasformare solo il latte della mia terra. Quindi 5 allevatori, 10, 15, 20 e via dicendo. Quindi avevo chi mi seguiva, progetto latte, quindi gli allevatori singoli, perché il latte l'abbiamo sempre ritirato direttamente, non attraverso grossisti, il padroncino, no. Sempre latte di raccolto con i nostri camion, con i nostri dipendenti, che tutti i giorni, anche la domenica, Natale, Pasqua e via dicendo, raccoglievano latte dalle campagne. Più avevo messo su una squadra, oramai eravamo in 30-35, di dipendenti che ci credevano. Maestri casari, giovani che volevano emergere con me. Abbiamo comprato un terreno e nel 2010, con accordi, programmi e via dicendo, ho realizzato un'azienda grande di 6.500 metri. Perché mi sono messo di nuovo in gioco per dire: riuscirò da una 500 a guidare una Mercedes, perché era importante il salto di qualità. Il fatturato nel frattempo era arrivato, chiusura 2010, 14 milioni, ci siamo trasferiti. Oggi l'azienda si è ingrandita ulteriormente, raggiungendo una superficie di 12.000 metri quadrati. L'intuito di D'Ambruoso è stato quello di puntare sulla burrata, formaggio fresco tipico delle Murge, simile alla mozzarella ma più morbido e filamentoso. Facendo le fiere anche all'estero, ci siamo accorti che c'è di moda la burrata. Abbiamo preso al volo questo desiderio del mondo estero e abbiamo fatto una sezione solo dedicata alle burrate. 1200 metri solo dedicata alle burrate. Che la burrata nel frattempo la stiamo distribuendo tra Europa e altre nazioni, in 23 nazioni, con uno o due grossisti ogni nazione. Quindi è il futuro. Poi i primi clienti che oramai hanno, diciamo, fatto il loro lancio della burrata, incominciano a chiedere il nodino, che giocava allo stagionato in grotta, affumicato, qualche scamozza affumicata. Quindi piano piano, siccome negli ultimi anni il Made in Italy sta tirando, stanno incominciando a conoscere l'azienda, quindi la vasta gamma, però ci vuole tempo. Ma l'apripista, oggi c'è la moda della burrata. Riuscire a creare un'economia di scala con il formaggio, pur mantenendo la qualità di un caseificio artigianale, è uno dei fattori che più hanno contribuito al successo di Delizie. Con la crescita delle operazioni e del fatturato, molte cose sono cambiate, ma l'azienda continua a produrre, lavorando artigianalmente, solo latte locale di alta qualità. La qualità è la prima cosa, perché all'estero hanno, secondo me, un buon pensiero, una buona idea di come fare. Vengono, visitano l'azienda, vedono la rintracciabilità e dopo, se sono soddisfatti, ti chiedono il prezzo, se no vanno via. Quindi cercano alta qualità, perché noi il latte non lo paghiamo a spot, il latte lo paghiamo a qualità, c'è un prezzo base, più qualità, perché bisogna sapere che qualsiasi prodotto che facciamo, se abbiamo una buona base, anche i casari lavorano meglio. Bisogna fare 2-3 analisi al mese, dove andiamo a vedere cariche batteriche, cariche microbiche, grasso, proteine, cellule somatiche, rese. Quindi tutti questi parametri mettono su un latte migliore o più scadente. Ahimè, anche in questi anni abbiamo dovuto lasciare qualcuno a terra, qualcuno che non ha sposato il nostro progetto. Non è che potevamo imporre a tutto il nostro progetto. Però adesso abbiamo meno aziende, più latte, perché poi le aziende che hanno visto che produrre in questo sistema remunerava di più hanno comprato qualche animale in più, quindi producono di più. Negli anni D'Ambruoso ha sfruttato la sua curiosità personale per innovare l'azienda, coniugando sapientemente novità e tradizioni e creando un laboratorio all'avanguardia, con analizzatori elettronici del latte, grotte climatiche e abbattitori di temperatura ad azoto liquido, dove la qualità è garantita da processi automatizzati, ma i formaggi vengono prodotti rispettando le ricette e i metodi di stagionatura tradizionali. Sono tutte idee mie, non per vantarmi, perché tutta l'innovazione. Allora, intanto sono uno che quando gira guardo sempre intorno e cerco di captare cosa mi può servire. Anche per esempio i collegamenti tra le due aziende li ho fatti con dei tunnel copiati andando in aeroporto. Le grotte da quando stavo in campagna, le vecchie cantine agricole. Quindi sono tutte cose innovative che io mi idealizzo, poi c'ho un ingegnere, li metto, dico, mettili su carta, fai i calcoli, ma voglio questo. Tutte cose che non devono cambiare il gusto del prodotto. Adesso voglio fare il progetto con i miei allevatori, alimentare i nostri allevamenti solo con materie prime prodotte in Italia. È un'altra pazzia, ma si può fare. Abbiamo già fatto dei test. Nei nostri terreni ci sono zone dove non sono a vocazione animale, ma ci sono dei terreni dove seminano grano. Con le ultime crisi di grano, quei terreni li possiamo convertire in cereali da dare agli animali. Alla crescita eccezionale del fatturato corrisponde ovviamente un aumento delle responsabilità e un cambiamento del ruolo di D'Ambruoso all'interno del caseificio che ha fondato. Nonostante questo, l'imprenditore continua a svegliarsi tutti i giorni alle 4 del mattino per essere in stabilimento prima dell'alba. Perché sono un tipo che devo mettere io le mani dentro. In effetti io alle 4 e mezza sono in azienda la mattina. Deve passare, sono un accentratore. Anche se ho dei buoni collaboratori che mi sono tirato su, però io alle 4 e mezza, più forte di me, sono in produzione. Ma mi sono abituato, quindi io dormo poco, 5 ore mi bastano, lo faccio con passione, non è per passione, quindi sai quelle cose che li fai dal cuore, quindi ti vengono bene perché ci metti il cuore. Il mio grande soddisfazione è essere riuscito nei sogni, perché questo era un sogno naturalmente quando ero ragazzo. Quindi alla base c'è l'umiltà, la squadra. Devo sempre ringraziare i miei dipendenti, che tutte le mattine, i miei venditori, i miei agricoltori, perché se io sono il pazzo ideatore, ma se poi da dietro il pazzo rimanda solo, non va da nessuna parte. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.